Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. In primo piano le dichiarazioni della commissaria alla concorrenza Vestager sulle banche italiane. Ha detto: le banche in tutta l'Unione Europea attraversano momenti difficili, ma l'importante è che quando usiamo le regole approvate da tutti siano adatte alla situazione specifica di tutti i paesi, ha detto la Vestager. Secondo il ministro delle finanze tedesco Schäuble, una soluzione del problema delle banche in Italia rispettando le regole europee è possibile. La nomina di Boris Johnson, leader della campagna per Brexit, a ministro degli esteri nel Regno Unito dimostra che le intenzioni del governo May di fare uscire il paese dalla Unione Europea sono serie, ha detto Steinmeier, il ministro degli esteri tedesco, riportando un testo anticipato di una intervista alla Bild. Intanto, sempre su Brexit, come avete sentito, Bank of England ha lasciato invariati i tassi. Vediamo invece nel servizio quali sono i tempi previsti nella trattativa tra Europa e Gran Bretagna. Si apre la questione tempi per la Brexit, dopo l'incarico alla nuova premier britannica Theresa May. E cioè, se meglio per tutti, Europa compresa, stare in quelli previsti, nonostante gli inviti ad accelerare sui negoziati, come quello del presidente francese Hollande. Ma ci sono incognite nazionali e internazionali per la grande sfida, come la chiama Theresa May, che per questo ha chiesto tempo. Antonio Villafranca, ricercatore ISPI e responsabile del programma Europa. Con l'ingresso di Theresa May e soprattutto con la creazione di un nuovo ministro, David Davis, che sarà appunto ministro per il Brexit, si spera appunto che si possa velocizzare il processo. Per l'uscita parte soltanto nel momento in cui neanche il governo, ma Westminster, quindi il Parlamento, invia la notifica al Consiglio europeo. E questo non è un compito facile per Theresa May, perché deve trovare la maggioranza a Westminster e contro il Brexit. E l'uscita veloce è sconsigliabile e condizionata anche dalla scelta del modello di rapporti futuri tra Gran Bretagna ed Europa. Se si preferirà il modello norvegese, quello svizzero, oppure appunto se si dovranno inventare nuovi modelli. I tempi non devono essere molto stretti. L'auspicio è invece che in autunno, al più tardi appunto, venga avviata la notifica e, come dicono a quel punto i trattati, entro 2 anni si chiuda l'accordo. Allungarli farebbe male ai mercati, accorciarli vorrebbe dire rottura. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Commissione Europea ha di nuovo messo nel mirino Google, qui a rivolto 2 ulteriori accuse, in particolare sotto la lente dell'antitrust è finito Alphabet, il servizio di shopping online di Mountain View, che per Bruxelles viene sistematicamente favorito nelle ricerche online. A Google viene poi contestato anche l'abuso di posizione dominante per aver artificialmente ristretto la possibilità per i siti terzi di mostrare le pubblicità dei motori di ricerca concorrenti. L'Italia, secondo un lavoro europeo, continua a restare indietro sull'innovazione. L'Italia, nonostante un'industria spesso competitiva a livello mondiale, rimane un paese poco votato all'innovazione. Secondo gli ultimi dati della Commissione europea, l'Italia è un innovatore moderato nello stesso gruppo di molti paesi dell'Est. Gli stati membri con cui la penisola si confronta di solito, la Francia o la Germania, sono assai più avanti in classifica. La Francia è considerata un forte innovatore, mentre la Germania è leader nell'innovazione insieme alla Svezia, alla Danimarca, alla Finlandia e all'Olanda. Ciò detto, vi sono eccezioni regionali. Il Piemonte e il Friuli Venezia Giulia sono considerati regioni molto innovatrici. Nel periodo 2008-2015 l'Italia nel suo insieme ha visto i suoi risultati nell'innovazione crescere dell'1,5% rispetto a una crescita media europea dello 0,7%. Più in generale, i dati comunitari pubblicati oggi qui a Bruxelles mostrano che l'Unione nel suo insieme sta recuperando terreno rispetto agli Stati Uniti e al Giappone, grazie a numerosi investimenti e a un migliore quadro regolamentare. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Europa 24 torna questa sera all'interno del nostro programma Effetto Notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.